Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Gran Bretagna, Europa e Brasile. Una miscela davvero esplosiva quella che abbiamo preparato oggi per voi sulle frequenze di Radio 24 con una puntata che vi offrirà innumerevoli spunti di vita e professionali, ovviamente oltre confine. Sia che vogliate immaginare un futuro vicino all'Italia, sia che puntiate su orizzonti più lontani. Andiamo allora a snocciolare velocemente il menu che ci offre la trasmissione, cominciando con la terza e ultima puntata della serie in collaborazione con l'Ufficio di Informazione Milanese dell'Europarlamento. Stavolta nella cassetta degli attrezzi vi parleremo dei programmi comunitari di mobilità. Poi ci trasferiremo oltre Manica per farci dare preziosi consigli da un giovane talento italiano al lavoro nel mondo dei software. Appuntamento di rito come ogni sabato con le migliori offerte di impiego del momento su scala globale, stavolta ce ne parlerà Face for Job, fino a chiudere con una serie di dritte utili su vivere e lavorare in Brasile, ovviamente per chi è alla ricerca di destinazioni esotiche. Allacciate dunque le cinture, anche oggi vi porteremo in giro per il mondo. Generazione Mobile. Lo spunto iniziale della settimana ci riporta a parlare dei controesodati, tema a cui abbiamo riservato grande attenzione in Giovani Talenti, la trasmissione che gli ha preceduto, Generazione Mobile. Nel 2016 risultavano rientrati in Italia 5.869 cervelli che hanno usufruito delle agevolazioni fiscali introdotte a partire dal 2010. E quanto si legge nella relazione tecnica che accompagna il maxi emendamento al decreto fiscale collegato alla manovra, le nuove norme prorogano fino al 2020 gli sconti introdotti nel 2010, che scadevano a fine anno e che prevedono una riduzione dell'imponibile IRPEF per chi torna in Italia dopo un periodo all'estero. Toolbox. Terza e ultima pillola di consigli utili dall'Europa in collaborazione con l'Ufficio a Milano del Parlamento Europeo. Vi abbiamo già raccontato come lavorare e fare tirocini all'interno delle istituzioni comunitarie negli ultimi due mesi. Oggi ampliamo lo sguardo ai programmi di mobilità per i giovani messi in campo da Bruxelles, sia quelli diciamo pure più classici e noti, sia quelli più recenti e innovativi. Ci accompagna in questo viaggio per l'ultima volta Barbara Forni. L'Unione Europea ha predisposto una serie di strumenti per favorire la cittadinanza attiva dei giovani e la loro occupabilità, quindi per affrontare le nuove sfide del mercato del lavoro, che è sempre un mercato globale sempre più competitivo. Per raggiungere questi obiettivi sono stati messi a punto quindi vari programmi a disposizione che puntano sulla mobilità per l'apprendimento, anche in chiave di non formal learning. Vorrei focalizzare l'attenzione dei nostri radioascoltatori su alcuni programmi specifici di mobilità. Ecco, partiamo dall'Erasmus, forse il più noto e il più conosciuto. Sì, l'Erasmus che ora ha la nuova definizione di Erasmus Plus o Plus, a seconda di come vogliamo pronunciarlo, è il programma dell'Unione Europea in materia di istruzione, formazione, mobilità giovanile e sport. Questo è un altro elemento importante perché per il nuovo settennio 2014-2020 le finalità di questo programma sono state ampliate. Quindi uno degli obiettivi è proprio creare sinergie e rete tra soggetti attivi nel mondo della formazione, ma che può essere declinato in azioni che vanno dalla mobilità individuale allo scambio di buone pratiche al sostegno alla riforma delle politiche del lavoro. Quindi si rivolge ad un miglioramento complessivo delle competenze dei giovani e a favorire anche la loro integrazione a livello locale, regionale e nazionale. Erasmus è sicuramente il più noto, ma ce ne sono altri magari meno noti, però possono essere molto utili. In tema di lavoro qui a Generazione Mobile parliamo molto di lavoro all'estero, c'è My First Eures Job. Esattamente, questo è un programma veramente incredibile, soprattutto perché è rivolto a giovani di una fascia di età compresa tra i 18 e i 35 anni, quindi davvero raccoglie un'ampia fascia. L'obiettivo è di aiutarli a trovare un impiego, quindi un impiego che può essere considerato sia un lavoro vero e proprio, ma anche un tirocinio o un apprendistato, questo è un elemento estremamente importante, in un altro paese dell'Unione Europea. Nello stesso tempo questo programma aiuta le imprese a trovare la forza lavoro da destinare anche a posizioni difficili che magari in alcuni paesi non sono immediatamente occupabili. Per partecipare a questo programma bisogna registrarsi e compilare ovviamente con i propri dati e le proprie esperienze un form sulla piattaforma online EU Job for You. È un luogo in cui praticamente si radunano tutti i curriculum dei candidati di questi giovani e dei datori di lavoro europei che ricercano giovani, quindi funziona come una sorta di piattaforma, un database di incrocio domanda-offerta di lavoro. Sempre in tema immobilità, è arrivata da poco anche una nuova iniziativa che ha a che vedere con la solidarietà. Come? Sì, il Corpo Europeo di Solidarietà, anche questa è una nuova iniziativa, anche qui rivolta ad una fascia ampia di giovani, dai 18 ai 30 anni in questo caso, che vogliono partecipare a progetti di lavoro o volontariato all'estero o anche nel paese di residenza e che hanno l'obiettivo, l'aiuto oggettivo a popolazioni europee in difficoltà. È un'opportunità per tutti quelli che vogliono avere un ruolo effettivo nella società e prestare la loro opera di aiuto alle persone. Anche qui per partecipare la procedura prevede la registrazione sul sito della pagina del Corpo Europeo di Solidarietà, dopodiché a registrazione effettuata il giovane può essere selezionato ed essere assegnato ad un progetto di intervento sul territorio. Gli ambiti dei progetti sono davvero ampli e vari, perché si va dalla prevenzione delle catastrofi naturali, di cui purtroppo anche in Italia siamo, come dire, oggetto, alla ricostruzione, all'assistenza nei centri per richiedenti asilo o a problematiche sociali di vario tipo che in tutte le comunità possono essere presenti. C'è anche una rete a cui fare riferimento, Barbara? Sì, un'altra appunto dei programmi a sostegno di questa mobilità internazionale è sicuramente la rete europea Eurodesk, nata con la finalità appunto di diffondere presso i giovani la conoscenza di queste opportunità, di queste offerte che l'Unione Europea mette in atto nei campi della mobilità, della formazione, del lavoro e del volontariato. E Eurodesk è la rete ufficiale anche del programma Erasmus+, per l'informazione sui programmi e le iniziative, quindi consiste in una serie di punti locali decentrati su tutto il territorio nazionale. Il testimone. Il testimone della settimana qualche anno fa ha staccato il proprio personale biglietto per la Gran Bretagna rispondendo a un annuncio di lavoro sul noto portale professionale LinkedIn. Luca Zanconato, 33 anni, è un software development manager. Oltre maniche ha trovato ad attenderlo un mercato del lavoro estremamente dinamico, il quale si è subito trovato a suo agio. Sarà così anche con la Brexit e perché oggi Londra? Quali profili professionali si adattano meglio al mercato anglosassone in tempi così incerti? Buon pomeriggio Luca Zanconato. Buon pomeriggio. La mia ambizione è sempre stata riuscire ad avere un team di sviluppo software. Luca, ci racconti come sei approdato a Londra partendo dagli studi in comunicazione digitale e informatica. Qual è stato in sintesi il tuo percorso? Certo, allora, appena finita la triennale in comunicazione digitale e iniziata la specialistica, ho trovato lavoro in una società di consulenza informatica che faceva anche systems integration tramite uno dei docenti dell'università. In quella ho visto varie realtà lavorative, dai trasporti all'energy supply e ai vari sistemi che parlavano tra di loro. Purtroppo questa poi è stata comprata da una società finanziaria che l'ha smembrata e sono partite varie start-up dalla società originale e mi sono spostato in una di queste. Era una startup che si focalizzava sull'innovazione e sul cloud computing. Su questa sono rimasto per un po' d'anni, però problemi di limitazione del mercato e il fatto di far riuscire ad entrare nella testa degli italiani l'innovazione e le ultime tecnologie. E questo poi ti ha portato a Londra di fatto? E mi ha portato a Londra di fatto, perché ho trovato una posizione a Londra in cui stavo lavorando sulle stesse identiche tecnologie, ma con un mercato chiaro, respiro globale. Di cosa ti occupi esattamente ora? Anti-piracy e sicurezza informatica. Blocco di tutti quei bei siti che ti permettono di guardare partite di calcio e film in maniera illegale. Chiaro. La cosa interessante è che ti è bastato rispondere a un annuncio su LinkedIn per arrivare a Londra. Tutto così facile? Beh, oddio, l'annuncio era lo step numero uno, poi la risposta è stata un'intervista telefonica nel giro di un paio di giorni e poi mi ha chiesto, ok, bene, quando è che sei a Londra la prossima volta? Io ho detto, ma settimana prossima. preso il primo volo, colloquio, albergo e via, selezione eccetera eccetera. Anche iscrivi a generazionemobile@radio24.it chiedendo informazioni pratiche su come cercare informazioni per trovare opportunità all'estero. Cosa consigli? Affidarsi alle annunci online, oppure ci sono anche altre strade magari specifiche per la Gran Bretagna, ad esempio gli headhunters? Dipende dal livello del profilo. Gli headhunter vanno bene per profili molto specialistici, anche per esperienza personale qui cercano di guardare in casa prima di dover assumere qualcuno dall'estero. Però in generale una buona risorsa è il network di amici ed ex colleghi. Parte di fare esperienza lavorativa è mantenere quelle connessioni e riuscire ad avere gli agganci. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la storia e i preziosi consigli di Luca Zanconato, 33enne software development manager in Gran Bretagna. Luca lavora nell'ambito informatico, oltre manica. Tra dinamismo e precarietà, tra opportunità e competizione, il mondo del lavoro britannico resta sempre una sfida e Luca ci spiega come affrontarla. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. È stata difficile la selezione oltre manica? Beh, ho fatto 4 colloqui nella prima e 10 nella seconda azienda, quindi sono molto tarati sulla posizione, non importa età, nazionalità, titolo di studio. Devono essere sicuri che tu sia quello giusto, insomma. Esatto. E consiglio pratico, meglio cercare lavoro dall'Italia su Londra, oppure ci sono ancora possibilità se si fa la valigia e si cerca un'opportunità direttamente sul posto? Beh, se sei aperti a ripartire facendo la gavetta e a dover dimostrare di saper fare il lavoro, si può anche partire con la valigia e spostarsi all'estero. Bisogna comunque mettere in conto che si parte quasi da zero. A Londra sei approdato circa 3 anni fa, ed era già una città in pieno boom di emigrazione di italiani oltre manica, e il primo problema al di là del lavoro è spesso quello di trovare casa in una città così costosa e con un mercato immobiliare impazzito. Quale consiglio ti senti di dare per evitare fregature? Andare tramite agenzie, evitare i sublet. Meglio se si va per conoscenze anche lì, e servono delle ottime referenze perché gli appartamenti scappano a vista della luce. Non farsi problemi a chiedere fin dall'inizio tutte le spese e i dettagli per non avere sorprese, e di solito in un primo momento accontentarsi di vivere in zona 3 o 4, anche se è distante dal punto di vista dei trasporti. Basta avere un buon appoggio. Tu critichi la burocrazia britannica nelle mail che ci hai scritto, è un po' una novità per noi, a cosa bisogna stare attenti? Ma ci sono i loop, ad esempio se vuoi un lavoro ti serve un conto corrente e un NI number, che è come il nostro codice fiscale. Per avere conto e NI number ti serve una prova di residenza, se vuoi una residenza devi dimostrare di avere un lavoro. È abbastanza chiaro, il cane che si morde la coda. Quanto è dinamico il mondo del lavoro anglosassone? Lo spieghi a chi come noi è ancora abituato al paludoso mondo dell'impiego italiano? Qui diciamo che dopo un anno nella stessa azienda cominci un po' a puzzare, nel senso che ti dicono ok, adesso cosa che vuoi fare? Hai fatto questo lavoro per un po' e quindi? Qui è abbastanza normale saltare da un'azienda all'altra, anche se comunque sta andando bene, nel senso che ti trovi bene con colleghi, carico di lavoro eccetera. La gente cambia. Due consigli pratici per tornare ai consigli pratici. Il primo è per chi vuole fare carriera nel settore informatico in UK. Qui a quali canali consigli di rivolgerti? Puoi darci qualche punto di riferimento per giovani programmatori che vogliono trovare un'opportunità oltre manica? Certo, allora LinkedIn, perché è quello che è stato per me chiave, e codice open source su GitHub. Più di un linguaggio di programmazione, più si mette codice lì, più le aziende cominciano a guardare su quel canale, su aree come artificial intelligence, big data e cloud computing. GitHub è la parola chiave. Yeah. Gli altri settori professionali, quali sono quelli che al momento offrono maggiori opportunità di assunzione? Allora, guardando giornali e notizie varie, settore infermieristico e medico, con ottima conoscenza dell'inglese, perché ci sono tanti infermieri che però non riescono a parlare la lingua, e poi accountant con esperienze internazionali, contabili che siano in grado di lavorare nella realtà europea, proprio per il fatto che adesso andremo a staccarci e quindi bisognerà ripartire con tutte le varie aziende che sono fuori dall'Inghilterra. Grazie Luca, sono consigli preziosi, perché ricordiamo la Gran Bretagna fino almeno ancora all'anno scorso era il maggior punto di approdo di espatrio dei nostri giovani, quindi possiamo capire che la competizione è davvero alta. Brexit l'hai citata tu stesso per chiudere. Consigliereste a un amico di trasferirsi oggi in un paese che tra due anni, neanche due anni, un anno e mezzo lascerà l'Unione Europea? Ma certo, allora, come gli Stati Uniti, il Canada o altri stati che richiedono un visto, non precludersi l'opportunità, essere parte del mercato che è inclusivo nello Stato non significa che non ne valga la pena. E Luca, prima di salutarci e ringraziarti per i preziosissimi consigli che ci hai dato oggi, sabato pomeriggio, una domanda, la nostra domanda di rito: quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Verifica il costo della vita, affitto, cibo, trasporti, tasse, e vedi se lo stipendio medio a cui stai puntando riesci a sostenerlo, altrimenti si entra nel loop del devo trovare un accommodation più distante perché lo stipendio non me lo permette e la qualità della vita comincia a scadere. Job Abroad. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Torna questa settimana Alessio Romeo, CEO e fondatore di Face for Job. Con lui andiamo alla scoperta delle offerte più calde del momento nel mondo. Buongiorno a tutti, per quest'ultimo appuntamento dell'anno dedichiamo questo nostro spazio a evidenziare quelli che sono stati i protagonisti del 2017 e non solo, nel senso che attualmente anche alle porte di Natale presentano in giro per il mondo offerte di lavoro ancora per la ricerca di nuovi profili. Allora, nelle top 10 delle nazioni più dinamiche l'Europa è sempre prepotentemente presente, con la metà delle nazioni che occupano 5 posizioni, quindi Germania, Francia, Inghilterra, Olanda e Spagna sono le nazioni più dinamiche, e si alternano con Stati Uniti, India, Cina, Canada e Australia. Le divisioni più attive sono state o sono ancora quelle della tecnologia IT, che con il 23% delle offerte in tutto il mondo, poi abbiamo il commerciale, l'engineering, il retail e marketing. Meno in evidenza sono state le offerte in ambito tax e legal e top management, a conferma del fatto che queste sono ancora posizioni che in gran parte vengono affidate a canali più riservati come quelli degli headhunter. Vediamo allora una rapida panoramica di quelle che sono le aziende internazionali che nel 2017 sono state appunto sull'Olimpo delle offerte e che attualmente hanno appunto delle posizioni aperte non indifferenti. Partiamo con il famoso marchio Zara, che dietro nasconde la società Inditex del famoso patrono Ortega, uomo tra i più ricchi del mondo, che assume ancora in 11 nazioni, tra le quali Spagna, Australia, Olanda, Cina, ma anche Kazakistan, Turchia e Grecia. Poi abbiamo la nota Siemens con offerte in 10 country, dall'Europa in Olanda, la Cina, Sudafrica, Thailandia, Indonesia, poi abbiamo un marchio noto, la Bonduelle, che offre offerte per ingegneri, periti e neolaureati in Canada e Olanda, la H&M in ambito retail in ben 16 differenti nazioni, dalla Russia alla Danimarca, Svezia sempre in ambito retail ma anche IT e finance. E poi abbiamo un gruppo del turismo molto noto che è stato molto protagonista quest'anno e lo è ancora, è il gruppo Accor, che presenta in ambito turismo ovviamente ma anche posizioni manageriali dalla Cina all'Egitto, ma anche Messico, Congo, Cile e Nuova Zelanda. Rapidamente a chiusura citiamo altri nomi importanti quali Nike, Honeywell, Procter & Gamble, Amazon, Novartis, L'Oreal, e concludo con due italiane che sono state molto dinamiche quest'anno e lo sono ancora, che sono la Ferrero e la Leonardo Finmeccanica, con molte offerte in Europa e nel mondo. Come al solito tutti i dettagli li trovate sul nostro sito www.faceforjob.com o tramite l'app, che è sempre aggiornata e dove potete anche trovare le informazioni necessarie per inviare la vostra candidatura. Internet Point. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Una nuova vita in Brasile? Perché no? Ma come fare? Da dove partire? Noi lo abbiamo chiesto a Laura Piscitelli, creatrice e ideatrice del blog Rotolando Verso Sud, nel quale racconta online la sua esperienza in Sud America, fornendo consigli utili a tutti coloro che stanno pensando a un espatrio nell'altro emisfero. Sentiamo cosa ci ha detto. Il mio blog è nato dalla mia passione per il Brasile nel momento in cui ho deciso poi insieme a mio attuale marito di trasferirmi qui in Brasile. Allora, andiamo su indicazioni molto pratiche per andare a vivere e lavorare in Brasile. La prima cosa che ti chiedo è: quali sono le predisposizioni che bisogna avere? Sicuramente bisogna avere anche un po' di spirito di adattamento. Il Brasile è un paese comunque con una serie di problematiche che forse da noi non sono presenti, quindi bisogna conoscere la realtà brasiliana sicuramente. e comunque amarlo, ecco, un paese che lo siamo, si odia il Brasile, credo. Sicuramente poi c'è la questione delle competenze, quindi cercare eventualmente per chi voglia lavorare qui di avere competenze richieste, quindi nel paese, o informarsi su questo, e ovviamente poi imparare la lingua, che è fondamentale, che in Brasile senza portoghese non, veramente non si va molto lontano. Poi c'è la questione ovviamente dei documenti, che è complicata, perché non essendo un paese dell'Unione Europea, noi come italiani abbiamo bisogno di un visto, e questo visto può essere un visto, diciamo, tradizionale, come quello che ho preso io per matrimonio, oppure un visto di lavoro, nel caso per esempio le persone che vengono in Brasile per lavorare in multinazionale potrebbero soffrire di questo tipo di visto, un visto di lavoro chiesto dall'azienda. La conoscenza della lingua portoghese è fondamentale per trovare lavoro in Brasile. Ci sono settori nei quali consiglieresti di candidarsi? Sicuramente qui nell'area medica, quindi medici, che mancano assolutamente, ingegneri, quindi queste professioni un pochino più di alto livello, e anche i professori, nella quale nel mio caso, per esempio, nella zona in cui io vivo, c'è una forte carenza di insegnanti, di professori, soprattutto di lingue e di materie scientifiche, quindi c'è una richiesta molto forte. A proposito di aree, ci sono anche aree geografiche da tenere in considerazione. Brasile è sterminato, quali sono quelle più interessanti dove cercare lavoro? In realtà, ecco, per vivere forse le zone più interessanti sono quelle più costiere, no? Quindi quelle che tutti conosciamo, appunto penso San Paolo, Rio de Janeiro, Salvador, sono le mete, diciamo, anche degli italiani in realtà che vengono in Brasile, però la concorrenza ovviamente lì è spietata, e quindi ritorniamo un po' nella situazione europea. Mentre per esempio la zona in cui io vivo, che è una zona molto interna del Brasile, io vivo in Rondônia, quindi vicino a Mato Grosso, siamo vicino alla Bolivia, quindi proprio al centro del Sud America. Qui, per esempio, c'è molta carenza di professionisti. Per maggiori informazioni potete cliccare su laureainbrasile.blogspot.it. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi, innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile, e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere, testimonianze personali da offrire? Scriveteci, aspettiamo le vostre lettere. generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro e imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza? Raccontare la vostra storia? Soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buon ponte dell'Immacolata da Sergio Nava.